Da questa settimana ho, anzi noi tutti abbiamo, un elemento in più per argomentare la nostra sostanziale disistima nei confronti dell'onorevole Segni. Non alludo al fatto che il noto leader parlamentare in definitiva sia un fiore reazionario, perché in un sistema rappresentativo ben articolato anche i reazionari hanno la loro funzione, se la svolgono bene possono essere degni della massima stima. E poi lui, poveretto, di essere reazionario per scelta personale, tradizione familiare, evidenti interessi di classe, non l'ha mai nascosto a nessuno, e se per motivi misteriosi è stato considerato un alfiere del rinnovamento e un pessimifero dei tempi nuovi, non è colpa sua, ma dei tanti imbecilli che lo hanno voluto vedere così, e che Dio li perdoni. No, quello che io non sopporto nel ragazzo è, come dire, quella certa indifferenza alle regole pratiche del gioco politico, del gioco democratico, il convincimento di essere autorizzato, anzi di essere destinato, ad assommare nella sua persona le funzioni del governo o quelle dell'opposizione o anche quelle di tutti e due insieme, per delega diretta del popolo, della società civile, di quello che volete. Guardate, è un atteggiamento che nel concreto si traduce in un'attenzione esasperata ai media come creatori del consenso e a un interesse scarsissimo per la dimensione collettiva partecipata della lotta politica. In questo segno è perfettamente omologo a quello che rappresenta probabilmente il suo modello politico, il Turpe Pannella, a cui non a caso è legato da uno strano mix di polemiche acidine e di complicità sostanziali. Sarà un caso, ma entrambi questi cultori del referendum e dei patti traversali sono così preoccupati della loro immagine pubblica che hanno rifiutato persino il proprio nome anagrafico, come due attori che si scelgono un nome d'arte, perché evidentemente sono convinti che un Marco o un Mario possono imporsi all'immaginario popolare con ben altra autorevolezza che un Giacinto e un Mariotto. Adesso Segni si è lasciato andare un'altra pannellata. La solenne promessa di abbandonare la lotta politica se non raccoglierà la balzecola di 1 milione di firme in calce a, non ho capito bene, a un patto con la nazione, un suo personale patto con la nazione. Non è una novità, appunto, perché ricorda le reiterate minacce del buon Marco di sciogliere il suo splendevatissimo partito salvo il conseguimento entro una data stabilita di tot adesioni a tot 1000 lire ciascuna, o le solenne promesse di tanti altri di ritirarsi a vita privata se non si fosse verificato questa o quell'altra condizione. Persino il segretario del Movimento Sociale, che dovrebbe essere per tradizione politica estraneo a certe sottigliezze democraticistiche, recentemente è caduto vittima di questa strana sindrome, assicurando che lascerà una volta per tutte l'alta carica nel caso di un fallimento alla sua candidatura di sindaco della capitale. In genere va detto che i cittadini non si lasciano prendere dal panico all'annuncio di simili prospettive, forti come sono della serena consapevolezza che le probabilità che Segni, che Pannella, che Fini e chi altri sgombrino spontaneamente il campo non è più alta di quella che lo faccia per esempio l'ex presidente Amato, che pure lo aveva promesso e senza condizioni. Ma il problema non è questo. Il problema è quello del modo di ragionare di chi si abbandona a queste inconsulte dichiarazioni. Perché vedete, a pensarci bene, che un leader sconfitto lasci via libera a qualcun altro non è una dimostrazione di serietà personale o di rigore metodologico, non è un optional ideologico individuale, è più o meno la regola ineludibile dell'attività politica. Il politico che non si crede ispirato da qualcuno deve la sua particolare posizione alla delega di tante persone che reputano che la sua attività rappresenti al meglio certi loro interessi. E al cessare di quella delega, quali che ne siano i motivi, ritorna inesorabilmente nella schiera di noi poveri cristi. È una regola, non dico che sia una regola straordinaria, spesso è crudele perché a volte i fallimenti non sono imputabili a colpi particolari del leader che li subisce. Magari costui avrebbe ancora molto da dare al popolo e al paese, ma non importa. Marco Quinzio Cincinnato, vi ricordate Marco Quinzio Cincinnato? A suo tempo si era guadagnato una fama duratura perché era ritornato a coltivare il suo campicello dopo aver vinto, non per aver promesso che in caso di vittoria degli Equi o dei Volsci o di chissà chi erano se ne sarebbe andato. Se ci avesse provato, i padri romani, che erano gente piuttosto seria, lo avrebbero preso a badilate e avrebbero nominato dittatore qualcun altro. Chi dichiara che in caso di fallimento di qualche suo progetto si toglierà di torno non è molto più meritevole di chi assicura che in caso di pioggia probabilmente si bagnerà. Invece di applaudirlo, bisognerebbe chiedergli come diavolo pensa di potersene esimere. Ma, appunto, in Italia notoriamente non si ritira mai nessuno, proprio perché il nostro sistema politico ha perso da anni qualsiasi collegamento con quella che una volta si chiamava la volontà generale, no? Perché si è retto in sistema chiuso e autosufficiente, in regime, come si dice, affatto slegato da problemi di delega e di rappresentanza, e i suoi esponenti si considerano investiti della propria funzione in perpetuo. E proprio quelli che affermano di incarnare la quintessenza del nuovo ci vengono a raccontare questa bellissima novità, che se non li vogliamo, bontà loro, sono anche pronti ad andarsene, dal che abbiamo tutte le ragioni di temere che, purché gliene diamo il minimo pretesto, ci staranno sul gobbo chissà per quanto ancora. Non induciamoli in tentazione, cittadini, aiutiamoli ad essere uomini di parola, mandiamoli via noi prima che cambino idea.